XXX sarò nel posto. Bella Bino, bella Will. La riviera parla chiaro. XXX. Si spinge in riviera, XXX, ogni martedì sera, XXX, la radio più fiera, XXX, appizzati la bomba in compagnia di Bean e Will. Si spinge in riviera, XXX, ogni martedì sera, XXX, la radio più fiera, XXX, appizzati la bomba in compagnia di Bean e Will.